Tu sei Lucifero vestita sì con orli e perle, tu ti incateni in mezzo al fuoco e dici fiemme apprende. Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro, che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo. E sto cadendo nel burrone di proposito, mi sto gettando dentro al fuoco, dimmi amore no. Finiranno anche le fiamme ma il dolore no, e non puoi uccidere l'amore ma l'amore può, capisci? So che puoi farlo, finiscimi, aspetto la fine, tradiscimi, poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la vie è la vie, no no no no no, se la vie è la vie, se la vie è la vie. No, no, no, no, no, se la vi, è la vi. E questa strana fiaba poi che fine ha? È la più grande storia raccontata mai. Siamo solo in 100 personalità, mentiamo promettendo a noi non finirà. E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta. La nostra storia che continua su pezzi di carta. La nostra storia mai finita che non ha una fine, perché torno come il diavolo a rubare vite. E capisci? So che puoi farlo, finiscimi, aspetto la fine, tradiscimi, poi dimmi è finita, zittiscimi. Se la vie è la vie, no no no no no, se la vie è la vie, se la vie è la vie, no no no no no, se la vie è la vie. Amore mio lo so, come sapessi già, profondi vuoti e poi so come finirà. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi, aspetto la fine, tradiscimi, poi dimmi è finita, zittiscimi.